sono. Mi spiace, non sono quello che credi. Non posso prometterti quello che chiedi. Orizzonti non miei, dentro occhi grandi, non sono i tuoi, ma poi ritorno dietro i miei passi, a piedi nudi.